forse ricordate quel ragazzo traviato, quello lungo con lo sguardo estraniato, quello che veniva al bar alla sera e tutti lo chiamavano mongolfiera, quello che di lui la gente diceva, quello è un mongolo che fa solo fiera. Si racconta ancora quando a scuola andavano tutti dietro i tempi allora, buttò nei cessi un sacco di cemento, aprì il rubinetto alla gol casamento, si ritirò ed evitò la condanna e festeggiò con fragole e panna. Con la mamma e alla mattina vedeva la Gianna, nel pomeriggio giocava i soldatini, ma la notte vendeva i giardini, fece carriera e diventò leggera, ma lo chiamaron mongol senza fiera. Fece presto una collocazione, tagliava il fumo col talco di mattone, la sua aero era naftalina e i suoi trip tutti metedrina. Fece carriera e diventò canaglia, ma tutti lo chiamavano mongoltaglia. Della sua carriera è stato quello che l'ha messa in galera, quando la pula l'ha trovato un giorno, diceva la roba, leva il medico di torno, la sua carriera si sgonfiò di colpo e tutti lo chiamavano mongol stolto. La gente dice che dentro il parlatorio il mongo racconta la storia di quel giorno, quando la pula pensò fosse strano, vedendo due seduti a cavalcioni sul ramo. Erano due della banda dei giardini, dicevano convinti di essere uccellini. Gonfiò di botto e tutti lo chiamarono mongorrotto.